Sarah was at the Carabinieri station because she didn't have her passport when the Carabinieri stopped her for a routine check. Unlike in England, in Italy, everyone must always be able to prove their identity. So it's advisable to carry ID at all times. Lorenzo had to fetch Sarah's passport from the hotel where she had left it and take it to the Carabinieri. So now... È tutto a posto. Continuiamo con la storia, ma prima ascolti e ripeta questa espressione, che significa... Something quick. Qualcosa di veloce. Notice that you have to use the word di after qualcosa. Listen to some other examples of the same structure. Qualcosa di bello. Qualcosa di famoso. Qualcosa di importante. Qualcosa di caldo. Qualcosa di dolce. The same happens when you use niente. Nothing. For example, if you want to say nothing important, you say niente di importante. Ed ora il prossimo dialogo. In strada. Lorenzo, thank you so much. Grazie mille. I was so scared. Ma adesso è tutto a posto. E guardi che bella giornata. Sì, fa caldo e ho fame. Anch'io. Possiamo mangiare qualcosa di veloce al bar. Che ne dice? Sì, all'aperto. Certo, all'aperto.